Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ve l'ho detto altre volte, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, diciamo che la politica italiana non dà mai modo di annoiarsi. C'è la maggioranza in completa fibrillazione, da una parte per Letta che chiede un cambio di passo, dall'altra ci sono vari avvertimenti. Non solo c'è stato il sasso nello stagno gettato ieri da Renzi col suo Jobs, perché ha l'AS Jobs Act, ma oggi ci sono vari elementi della maggioranza, diciamo, che minacciano di andarsene. Scelta Civica, che dice se l'emendamento sulla TASI non cambia noi ce ne andiamo, e poi c'è Alfano, segretario del nuovo centrodestra, nonché vicepresidente del Consiglio, che dice attenzione, se il PD proporrà i matrimoni gay noi siamo pronti ad andarcene. Insomma, c'è questo rischio di scollamento della maggioranza. È un argomento, tra l'altro, questo ormai ve ne sarete resi conto, questo dei gay, che crea sempre degli scompigli pazzeschi. Addirittura, appunto, Alfano che dice che è pronto alla crisi se si farà qualche passo in questa direzione. Ho lanciato anche l'argomento sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, e ho visto già diversi vostri commenti, quindi c'è quella pagina per i vostri commenti, e c'è anche sempre il numero dei messaggi, che è il 349 238 6666. C'è da dire che possiamo accontentarci del fatto che gli italiani sono i più ricchi d'Europa, ma nel senso di patrimonio genetico, pensate. Le continue migrazioni e l'isolamento delle minoranze linguistiche hanno lasciato un'impronta così marcata sul DNA da rendere il nostro il più variegato di tutto il vecchio continente. Basti pensare che la distanza genetica tra due sardi o due abitanti delle regioni alpine è decine di volte superiore a quella che divide popolazioni proprio agli angoli opposti d'Europa, come portoghesi, ungheresi o spagnoli o romeni. Uno studio tutto italiano, questo dell'Università La Sapienza di Roma e degli Atenei di Bologna, Cagliari e Pisa. Possiamo consolarci di questo, evidentemente, per questo non si riesce a fare il bipolarismo. Poi lo capiremo, ma intanto capiamo quali sono stati i fatti principali della giornata. Intanto una notizia di pochi istanti fa: legge elettorale, il disegno di legge di riforma sarà alla Camera il 27 gennaio, quindi c'è già una data. E poi crisi e governo, Letta dice ora ci vuole un cambio di passo, ma Scelta Civica dà l'alto là sulla TASI, Alfano avverte se arriva la proposta dei matrimoni gay lasciamo. Renziani contro Saccomanni, Nardella Mix 24 commenta: i tecnici non funzionano. Traffico dei rifiuti, arresti per la maxi discarica di Malagrotta, tonnellate di differenziata tutta insieme agli altri rifiuti nella discarica. Il caso Diodonné, guerra di sentenze, la Francia blocca il comico antisemita e questa sera era atteso in teatro. E per quanto riguarda il calcio, Galliani assicura arresto al Milan, pace fatta a quanto pare con Barbara Berlusconi. Siamo quindi dalla riscossa annunciata o auspicata, insomma decidete voi, dal presidente del Consiglio Letta. Serve un cambio di passo, ha detto, non c'è da riscrivere l'agenda del governo ma darle più forza. Il 2014 sia l'anno della riscossa, sono le prime parole queste del presidente del Consiglio, che ha incontrato la delegazione dei Popolari per l'Italia. Ma malumori nella maggioranza li sta provocando intanto la TASI. Va cambiata o maggioranza a rischio? Questo è l'ultimatum di Scelta Civica. Dopo la gaffe sui rimborsi ai professori della scuola arriva quella sulla TASI. Il governo pensa di aumentare la tassa dei servizi fino allo 0,8 per mille affinché i comuni possano coprire il minore gettito dopo l'abolizione dell'IMU sulla prima casa e permettere gli sgravi per le famiglie in difficoltà. Ma anche così comunque le entrate non sarebbero sufficienti. Il presidente dell'ANCI, Piero Fassino. Incasseremo sulla prima casa la metà di quello che incassavamo con l'IMU. Vuol dire circa 1 miliardo in meno per i comuni. Per un comune come Milano 100 milioni, un comune come Roma 60 milioni, un comune come Torino 40 milioni in meno. Ora, questi soldi, se non ci sono, rendono molto difficile garantire servizi che noi oggi garantiamo ai nostri concittadini. Scelta Civica annuncia battaglia, in assenza di modifiche il governo rischia di saltare. Stefania Giannini. Se in questo episodio, come in altri, non c'è un ascolto chiaro, di un messaggio altrettanto chiaro, allora forse dobbiamo riflettere tutti. Per il Movimento 5 Stelle si passa dalla padella alla brace, mentre dopo questa nuova impasse per il governo è di nuovo rimandato l'incontro tra il premier Enrico Letta e il segretario PD Matteo Renzi per decidere l'agenda dell'esecutivo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sotto assedio, accerchiato dai renziani, come sentivate dai titoli, c'è anche il ministro dell'economia Saccomanni. Sentiamo infatti cosa ha detto questa mattina a Mix 24 al microfono di Giovanni Minoli il deputato del PD Dario Nardella, ex vice sindaco di Renzi a Firenze. Io penso sia grave quando un ministro così importante come Saccomanni dica sono un esecutore o nessuno mi ha istruito. Io penso che il ministro dell'economia debba essere guidato da un politico, allora, come regola generale, perché abbiamo visto che l'esperienza dei tecnici non ha funzionato bene. Adesso sto guardando proprio un'agenzia di questi istanti, ci sarà una riunione a Palazzo Chigi per decidere sul percorso di privatizzazione delle Poste Italiane. Ma procediamo, domani c'è il Consiglio dei Ministri, è attesa la svolta per i figli. All'ordine del giorno ci sono infatti le norme per l'attribuzione del cognome della madre dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, poi torneremo a parlarne questa sera. Ma in serata a porre un'altra questione, un altro ultimatum, è stato il vice presidente del Consiglio Alfano, sentite. Stiamo al governo per fare scudo a delle cose che la sinistra farebbe se non ci fossimo noi. Quindi qualcuno... Basta pensare a matrimoni gay, frontiere libere aperte agli immigrati, adozioni dei bambini da parte delle coppie gay e legalizzazione della cannabis per capire qual è l'universo valoriale e programmatico di una sinistra che non collabori con un pezzo di centrodestra che faccia argine a tutto questo. Quindi qualsiasi di queste cose provocherebbe la rottura dell'apporto di governo col PDS, PD. Se propongono il matrimonio gay, ma noi ce ne andiamo un attimo prima, ma a gambe levate, denunciandolo all'opinione pubblica. A gambe levate, quindi se ne andrebbero. Che ne pensate di questo tema che crea davvero tante convulsioni e spaccature? La pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure il numero per i messaggi 349-238-6666. Intanto un primo silo in cassa, un'altra proposta di Renzi, il Jobs Act, ne abbiamo parlato ieri, vi ricordate, in tempo reale, mentre c'erano le prime indiscrezioni con l'economista Tito Boeri, va nella giusta direzione, dice il commissario al lavoro europeo Andor, che oggi era a Roma, lo abbiamo intervistato. We understand that this is work in progress. Per quanto ne so, si tratta comunque di work in progress, di un qualcosa ancora in divenire. Naturalmente però sembra esserci un nuovo impulso, un nuovo impeto appunto per tornare a parlare della riforma del mercato del lavoro. Da tempo ormai la Commissione europea sta incoraggiando il governo a parlare appunto di queste possibili riforme che possono rendere il mercato del lavoro in Italia più dinamico e più inclusivo. And we can only welcome proposals to that direction. Ma sentiamo anche quali sono stati i commenti a questo piano per il lavoro che arrivano anche dall'Italia. Una bozza sulla quale sono gradite idee, critiche e commenti, e con un tweet che Matteo Renzi, quasi per mettere le mani avanti, chiarisce che il Jobs Act non è ancora il documento definitivo, quello verrà presentato ufficialmente il 16 gennaio nel corso della direzione del PD, ma intanto le linee sono già tracciate, 7 settori chiave, dalla cultura al Made in Italy, dalle tecnologie alla green economy, al nuovo welfare, alla manifattura, all'edilizia. Previste nuove regole per semplificare le procedure esistenti, con riduzione delle varie forme di rapporti di lavoro e una legge sulla rappresentanza sindacale sul modello tedesco, ma anche l'assegno universale per chi perde il posto di lavoro, misure a sostegno delle imprese come il taglio del 10% del costo dell'energia e dell'IRAP. E intanto arriva la frenata del ministro del lavoro Giovannini, secondo il quale c'è un problema di coperture, servono investimenti, dice, consistenti per sostenere questa proposta. Perplessità anche dal nuovo centrodestra, proposte teoriche, un libro degli intenti, dura Forza Italia, testo scritto da dilettanti allo sbaraglio. Scetticismo arriva anche da Movimento 5 Stelle, Scelta Civica. Renzi incassa invece il sostegno della CISL di Bonanni. Tendenzialmente siamo favorevoli, dice il segretario. Speravamo in una maggiore ambizione, commenta invece il segretario della CGIL Camusso. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E più tardi sarà ospite qui di Effetto Notte Pietro Ichino di Scelta Civica, il Gius Lavorista. Sentiamo che cosa ne penserà. Ha presentato a sua volta un Job Act, quindi sentiremo cosa ne pensa di quello di Renzi e quali sono i punti salienti del suo. Intanto il costo del denaro in tutto questo resta invariato allo 0,25%, l'ha deciso la Banca Centrale Europea. L'Eurozona sperimenterà un prolungato periodo di bassa inflazione, così ha avvertito il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, aggiungendo per il 2014 e il 2015 la ripresa dell'Eurozona sarà debole, così ha detto. E ora gli sviluppi sulla vicenda relativa alla vicenda della casa all'insaputa, vi ricordate, di un ex ministro. 3 anni di carcere e una multa da 2 milioni di euro sono queste le richieste della Procura di Roma nei confronti di Claudio Scajola, sotto processo con l'accusa di illecito finanziamento per la sua famosa casa con vista Colosseo. Quell'appartamento, pagato in parte a sua insaputa, si era difeso l'ex esponente del PDL che per quella vicenda, travolto dalle polemiche, si era dimesso da ministro. Una condanna a 3 anni di reclusione è stata chiesta anche per l'imprenditore Diego Anemone, figura centrale nell'inchiesta di Perugia sugli appalti per il G8, dalla quale deriva quella sulla casa di Scajola. Secondo i PM Felici e Calò, attraverso l'architetto Zampolini, Anemone avrebbe pagato una parte consistente della somma versata dall'ex ministro per l'acquisto dell'appartamento, circa 1.100.000 euro su un totale di 1.700.000. La richiesta dell'accusa è pesante, ma nel processo è stato dimostrato che i fatti su di me sono insussistenti, commenta Scajola, che dice di attendere con serenità la sentenza prevista per il 31 gennaio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci all'estero. Una notizia di questi istanti: una donna si candida premier, la prima nella storia in Libia. Si chiama Amal Elai e passerà alla storia appunto per essere la prima donna a candidarsi alla guida della Libia. L'annuncio è circolato oggi sui media locali e la notizia poi si è presto diffusa sui social network con una pioggia di complimenti e congratulazioni firmate da attivisti ed ex rivoluzionari. È un'eccellente persona, ora ha bisogno di sostegno dei libici perché ci può portare in una situazione migliore di quella in cui siamo oggi, così scrive un attivista per le pari opportunità. Restiamo all'estero con discussioni che ci sono in Francia. Ricorderete la vicenda del comico antisemita Dieudonné? Questa sera doveva andare in scena, ma è stata una giornata di colpi di scena per l'appunto, uno dopo l'altro. Poi ne parleremo più tardi collegandoci direttamente con la Francia. Torniamo invece in Italia per spostarci sul Lazio. Chiusa la mega discarica di Malagrotta, sentite ora che cosa si è scoperto. Altro che raccolta differenziata, quasi tutti i rifiuti di Roma e dell'Interland finivano nella discarica di Malagrotta. È uno dei punti che emerge dall'inchiesta del NOE, che oggi ha fatto scattare gli arresti domiciliari per 7 persone, primo fra tutti il proprietario del terreno su cui la discarica sorge, Mallio Cerroni. Accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, deve rispondere anche di truffa. Per anni le sue società avrebbero incassato denaro per trattare parte della spazzatura e trasformarla in combustibile. Mentre svelano le indagini, veniva buttato tutto in discarica. Nel frattempo Malagrotta continuava a saturarsi, consentendo di tenere le amministrazioni sotto scacco. Cerroni, che si è sempre dimostrato lungimirante, aveva pensato già un'alternativa. A Monti dell'Ortaccio, in un terreno sempre di sua proprietà, ha fatto partire i lavori per un nuovo invaso. Poco importava se mancavano le autorizzazioni. Il gruppo Cerroni, scrive il giudice, avrebbe simulato l'esistenza di titoli autorizzativi di fatto inesistenti. Oggi l'impero di Cerroni, che incassa 150 milioni di euro l'anno, ha iniziato a scricchiolare assieme a quello che è stato definito il sistema Malagrotta, una struttura parallela che avrebbe gestito il ciclo dei rifiuti per 30 anni. E nel fango vengono adesso trascinati imprenditori, politici e funzionari. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In manette è finito anche il patron della Nocerina Calcio. L'accusa: fondi neri per pagare i calciatori. Sequestrato un patrimonio di centinaia di milioni di euro, tra cui quote pari al 42% del capitale sociale della Nocerina Calcio. Parliamo anche di incidenti e di sicurezza stradale. Meno vittime, meno incidenti sulle strade italiane, meno violazioni, ma la piaga resta ancora la guida in stato di ebbrezza. Lo attesta il bilancio 2013 della Polizia Stradale, che denuncia una flessione rispetto al 2012 di oltre il 15% degli incidenti stradali mortali, una diminuzione delle vittime della strada del 14%. Cambiamo argomento col cinema. A 30 anni dal film cult Sapore di mare, i fratelli Vanzina tornano in sala da oggi con Sapore di te, commedia corale ambientata negli anni 80. E questo, spiegano Carlo ed Enrico, non è un caso. Sentiamoli allora al microfono di Marta Cagnola. È un momento, secondo me, un po' triste per l'Italia, perché i giovani non trovano lavoro, sentono questa sfiducia nel futuro, c'è un tunnel buio dove non si vede luce. È un po' un film per famiglia, nel senso che dovrebbero andare i genitori a ricordare e far vedere ai giovani come si divertivano, e forse ai giovani darebbe una speranza per quello che succederà dopo. Vogliamo anche spiegare ai giovani che poi non si devono buttare troppo giù, perché c'è un destino, che in realtà i grandi cambiamenti della nostra vita possono essere economici, sì, però sono i cambiamenti sentimentali quelli che ci fanno diventare quelli che siamo. Per cui di non avere assolutamente sfiducia, perché un destino arriverà e li aiuterà a diventare quello che devono diventare. In chiusura il calcio: in casa Milan potrebbe essere pace fatta. Resto al Milan, ha detto oggi Adriano Galliani. Benvenga Barbara, cioè Barbara Berlusconi. Abbiamo avuto qualche problema iniziale, ma credo che siano risolti. Così almeno ha detto Galliani. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco qua, pochi istanti appunto per sentire quali sono le notizie per chi sta viaggiando, e vi do anche, invece vi ridò a questo punto, se avete acceso la radio in questo momento, quelli che sono stati i titoli principali della giornata. Cominciando dalla legge elettorale, il disegno di riforma sarà alla Camera il 27 gennaio. Questa è la notizia proprio fresca fresca di stasera. Crisi e governo, Letta dice ora ci vuole un cambio di passo, ma Scelta Civica dall'alto là sulla Tasi. Alfano avverte, se arriva la proposta dei matrimoni gay, lasciamo. Tanto i renziani sono contro Saccomanni, Nardella oggi a Mix24 ha commentato, i tecnici non funzionano, ci vuole un politico anche all'economia. Traffico di rifiuti, arresti per la maxi discarica di Malagrotta, poi il caso di Edonné, guerra di sentenze, la Francia blocca il comico antisemita, questa sera era atteso in teatro, e per il calcio Galliani assicura che resta al Milan, pace fatta con Barbara Berlusconi. Dunque, ieri sera, se c'eravate, spero di sì, abbiamo parlato proprio mentre uscivano le prime indiscrezioni e poi negli istanti in cui Matteo Renzi lo pubblicava sul suo sito, abbiamo parlato del suo Jobs Act con i punti principali. C'era in onda in quel momento l'economista Tito Boeri, che ha parlato di elementi, di idee molto interessanti che però andavano poi viste nel dettaglio. Infatti era lì che succedeva in presa diretta. Stasera però ne vorrei parlare con il senatore Pietro Ichino, che saluto. Buonasera Ichino. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. È conosciutissimo giuslavorista, è senatore di Scelta Civica con un passato particolare anche da ex dirigente sindacale. Poi nel 2002 vi ricordo che ha avuto le prime minacce del BR. Viaggia ancora quindi sull'auto blindata lei, Chino? Ahimè sì. Purtroppo. Io a dire il vero ho chiesto che il dispositivo venga eliminato, ma la Digos ritiene che sia ancora necessario. È ancora in pericolo. E poi mi spiace per lei, nel 2008 è stato eletto senatore nel PD, poi ha partecipato alla Leopolda nel 2012, proprio nel 2012 poi ha lasciato il PD e nel 2013 si è candidato, è stato eletto con Scelta Civica. E da questo distacco, proprio la Leopolda forse ha capito che Renzi non le piaceva fino in fondo? No, non è così, solo ho ritenuto che per continuare a perseguire con la maggiore efficacia possibile quegli obiettivi che erano stati al centro della Leopolda, in larga parte tra l'altro condivisi da Renzi con me, fosse più utile che il mio lavoro politico proseguisse nella nuova formazione a cui Monti stava dando forma, e proprio in quegli ultimi giorni del 2012, e anche perché in quel momento il PD stava compiendo scelte drammaticamente diverse che a mio avviso andavano in direzione non ostinata e contraria, senatore Ichino. Allora, intanto, se mi dice sinteticamente cosa pensa del Jobs Act di Renzi, invece lei ne ha presentato un altro senza S. Intanto c'è una differenza, non c'è la S nel suo Jobs Act, questo già ci dice qualcosa. Il progetto che abbiamo presentato oggi a Palazzo Madama in realtà è stato presentato da Scelta Civica sia alla Camera sia al Senato fin dall'estate e autunno scorso, consta di 7 diversi disegni di legge. Uno è il codice semplificato del lavoro, poi la sperimentazione immediata di un contratto di lavoro a protezioni crescenti, molto più snello e meno costoso rispetto al rapporto di lavoro attuale, la promozione del lavoro femminile con lo sgravio fiscale selettivo, le misure per l'invecchiamento attivo, il contratto di ricollocazione come nuovo metodo per i servizi nel mercato del lavoro. Insomma, è tutto un insieme di misure che non nascono certo oggi e che sono il frutto del lavoro di anni, che abbiamo condensato in questi disegni di legge che ho oggi abbiamo presentato con una conferenza stampa insieme a Irene Tinagli e al segretario nazionale Stefania Giannini che è stata ospite infatti 2 giorni fa anche qui. Ma senatore Ichino, allora vuol dire, quindi il vostro c'era già, vogliamo dire allora, come ha detto oggi Alfano, non so se lei è d'accordo, che ha detto che quella del Jobs Act di Renzi, quella di Renzi, è una vecchia zuppa rimestata? Non dico assolutamente questo, voglio solo dire che questo nostro presentare organicamente in questo momento tutte queste proposte ha il significato politico di ricordare che questo è quello che noi chiediamo al governo Letta di mettere al centro del suo contratto di coalizione, e lo chiediamo non all'indomani dell'annuncio di Matteo Renzi, al quale siamo interessatissimi ovviamente perché siamo alleati del PD in questo governo e vogliamo probabilmente le stesse cose che Renzi intimamente vuole, solo che gli annunci presentati da Renzi sono per certi aspetti un po' deludenti, nel senso che... Che cos'è che la delude di più? Io noto in questi 6 punti che Renzi ha presentato innanzitutto delle esitazioni, dei annunci di ritardo. Per esempio, lui in tutta la campagna elettorale ha detto codice semplificato del lavoro va fatto subito, in 3 mesi lo possiamo avere in gazzetta ufficiale, e lo ha ripetuto molte volte anche il giorno dopo l'elezione. E poi oggi ci dice che invece di 3 ne occorrono 8 mesi. Forse ci ha ripensato. Quel testo che lui stesso presentò con me il 15 novembre dell'anno del 2012, evidentemente nel secondo le valutazioni del suo staff richiede delle modifiche rilevanti e non delle pure semplici messe a punto. Allora vedremo quali modifiche intendono apportare. Però certo questo non sono i 3 mesi annunciati in campagna elettorale, ma è un rinvio a un autunno che mai come in questo gennaio appare lontanissimo. Visto che siamo in inverno, ma Ichino, quindi questo dice, vabbè, questa è una questione magari riorganizzativa di tempi, ma la cosa che le piace meno, il punto che le piace meno, che la convince meno? Volevo solo aggiungere un differimento, un rinvio c'è anche sul contratto a protezioni progressive, perché lì l'annuncio di Renzi è un processo verso il contratto a protezioni gradualmente crescenti, che significa che non è un qualcosa che lui annuncia come fattibile oggi, ma è un qualcosa sul quale ritiene che debbano esserci ancora approfondimenti, discussioni. Anche questo mi sembra un elemento di esitazione politica che diciamo è un po' inconsueta da parte di Renzi. Invece la cosa che proprio non mi piace per nulla, che mi sembra una concessione a un modo a una politica del lavoro con cui Renzi credo dovrebbe tagliare i ponti molto recisamente, è quell'accenno che lui fa in uno dei 6 punti ai 40, più oltre 40 rapporti di lavoro che andrebbero disboscati, andrebbero ridotti. Che secondo lei sono meno invece. È una leggenda metropolitana, nel senso che in realtà i rapporti di lavoro, i contratti nei quali si può dedurre come oggetto la prestazione di lavoro, a volerli proprio contare minuziosamente non superano i 14-15, salvo naturalmente a volerli incrociare con le varie possibili forme di part-time o di patto di non concorrenza, ma allora altro che 40, arriviamo a 200 o 500 tipi di contratto. In realtà messi insieme tutti non sono più di 12, 14, volendo non computare alcuni molto marginali, E il fatto che lui dica li vogliamo sfrondare, vorrei capire che cosa vuol sfrondare. Cosa vuol sfrondare? Mi dica quali una cosa. Sono quelli che vorrei. E qui, siccome in realtà non c'è risposta, perché questa è proprio una concessione a un vecchio luogo comune della polemica della vecchia sinistra politica e sindacale nei confronti della legge Biagi, io dico da Matteo Renzi questo non me lo sarei proprio aspettato, ecco. Senta, invece, passando al suo di Job Act, quello senza S, sì. La Flex Security in cosa consiste esattamente? Essenzialmente consiste nel coniugare il massimo possibile di snellezza del rapporto di lavoro e flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza economica e professionale del lavoratore, che evidentemente non è una sicurezza che si possa più costruire sull'ingessatura del rapporto di lavoro, ma oggi è, cioè, una sul tempo indeterminato, che va costruita nel mercato del lavoro, cioè dando al lavoratore una pieno sostegno, robusto ed efficace sostegno non solo del reddito condizionato alla sua disponibilità reale a cercare il nuovo posto, ma anche sul piano professionale, con tutte le iniziative di riqualificazione e addestramento necessarie per rispondere alle domande di lavoro esistenti nel mercato. Ecco, questo significa proprio vedere una nuova frontiera del diritto del lavoro, della protezione dei lavoratori, dove l'istituto cardine è il contratto di ricollocazione, che è una cosa importantissima che tra l'altro non abbiamo inventato noi, la stanno sperimentando in Olanda da 10 anni e ultimamente anche dalla Gran Bretagna. È un contratto che viene stipulato dal disoccupato con il centro per l'impiego e l'agenzia specializzata nell'assistenza intensiva per la riqualificazione e la ricerca del nuovo posto di lavoro, che verrà retribuita con un voucher, cioè un buono a carico della regione, cioè pagato dall'amministrazione pubblica, ma l'agenzia è scelta dal lavoratore, quindi è il lavoratore che mette in concorrenza tra loro le agenzie accreditate e sceglie quella che gli dà le migliori prospettive. Il voucher naturalmente è commisurato inversamente alla collocabilità del lavoratore, lì il centro per l'impiego deve classificare il lavoratore secondo una griglia che in Olanda e in Gran Bretagna hanno perfezionato, già identificato. Noi possiamo copiare, attingere a piene mani da quelle esperienze. Ichino, ecco, siccome vorrei farle ancora 2 o 3 domande, se riusciamo un po' a sintetizzare, le volevo chiedere molto sinteticamente le risorse, lei sa dove andarle a prendere per una riforma del mercato del lavoro, perché anche quello di Renzi, forse qualche critica dal punto di vista di capire dove si prendono i soldi. Allora, è molto sintetico. Cominciamo col dire che questo metodo di ricollocare i lavoratori disoccupati presenta un aspetto di costo notevole, perché le agenzie specializzate costano, costa molto meno spendere 3, 4, 6 mila euro per un servizio come si deve di outplacement che tenere un lavoratore per 8 anni, 10 anni in cassa integrazione. Quindi diciamo anche solo il cambiamento di paradigma nel modo di affrontare le crisi occupazionali già ci fornisce non solo il finanziamento per questo nuovo modo di assistere i lavoratori molto più moderno ed efficace, ma addirittura anche per ridurre il cuneo fiscale contributivo. Noi oggi questo abuso diffuso, gravissimo, della cassa integrazione che caratterizza il nostro paese lo paghiamo con i contributi, il 3%, una tassa del 3% sulla busta paga. Ecco, che è invece sul suo piano del lavoro vorrebbe impiegarli in attività di utilità pubblica. Questo no, può essere, questo è un altro discorso. Un altro punto, però ne parliamo magari un'altra volta, senatore Chino, mi perdoni, perché volevo chiederle 2 cose prima di lasciarci. Volevo chiedere, questa storia della TASI, voi avete dato come Scelta Civica l'ultimatum al governo dicendo se non cambia questo emendamento noi ce ne andiamo, però il ministro del Rio degli Affari regionali ha detto ci spiace per gli amici di Scelta Civica, il governo non può ripensare la TASI. Che cosa che proprio vi fa arrabbiare? 2 parole. ci fa arrabbiare innanzitutto che si prendano in giro i cittadini, non si può dire eliminiamo il l'IMU sulla prima casa e poi far rispuntare la stessa imposta con un altro nome. Questo è un errore gravissimo. Questo dell'IMU, dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa è proprio un peccato originale che ha commesso il governo Letta e di cui stiamo pagando le conseguenze in modo pesante e gravissimo per la credibilità stessa del governo. Vero. Noi non accettiamo di avallare questa presa in giro e lo riteniamo anche indegno di un paese civile. Si devono dire le cose come stanno, e cioè che per rilanciare l'economia nello stato in cui è oggi in Italia, per prima cosa si deve detassare il lavoro e l'impresa, quindi chi produce, in seconda battuta chi consuma, quindi riduzione dell'IVA o comunque non aumento dell'IVA, e solo in terza battuta chi possiede. Noi abbiamo fatto esattamente l'opposto, nonostante che solo nella primavera dell'anno scorso ci siamo impegnati con l'Unione Europea a seguire questa priorità. E questo è proprio un errore gravissimo. Chiarissimo. Se il governo si impunta a volerlo fare, voi lo sosterremo dall'esterno per evitare una crisi al buio, ma non possiamo dare il nostro avallo. Vale. Mi dica proprio l'ultima cosa, ma sinteticamente, senatore, perché ci dobbiamo proprio lasciare. Voi ve ne andate anche nel caso in cui ci fosse la proposta del PD delle unioni civili, come ha detto Alfano, loro se ne vanno nel caso, no, centrodestra. Voi? Neanche per idea. Ah, ecco. Noi su questo abbiamo presentato, anzi proprio insieme al PD, una proposta di legge, seconda firmataria Linda Lanzillotta, e siamo dell'idea che questo sia addirittura un dovere dell'Italia per allinearsi a uno standard europeo che ci è imposto per la non discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali e per garantire una parità di diritti a queste coppie rispetto a quello che accade in tutti gli altri paesi europei. Siamo rimasti gli ultimi a non riconoscere questo dato di fatto. È la verità. Quindi sicuramente non può essere questo un motivo di nostro dissenso rispetto a questa proposta. Bene, chiarissimo. Io la ringrazio, senatore Pietro Ichino. Grazie a lei. Buon lavoro e buon anno. E noi poi anche di questa materia. Poi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E a proposito di notizie, vi ricordo quelle principali attraverso i titoli, con a partire dalla legge elettorale, il disegno di legge di riforma sarà alla Camera il 27 gennaio. E poi a proposito della crisi e del governo, Letta dice ora ci vuole un cambio di passo, ma abbiamo sentito poco fa Scelta Civica dall'alto là sulla Tasi, mentre Alfano lo dà sui matrimoni gay. Poi Renziani contro Saccomanni, Nardella Mix 24 oggi ha commentato i tecnici non funzionano, il caso di Donne in Francia, guerra di sentenze, la Francia blocca il comico antisemita che questa sera era atteso in teatro. Per il calcio Galliani assicura resto al Milan. E vi ricordate adesso lo spazio all'Europa, Europa 24, in vista delle elezioni europee che ci saranno il 25 maggio? Due giorni fa vi dicevo, abbiamo parlato della bacchettata della Corte Europea dei Diritti di Strasburgo nei confronti dell'Italia affinché legiferi per assicurare il diritto di dare il proprio cognome ai figli anche da parte delle madri. E su questo sentiamo allora una politica di lunga esperienza, l'eurodeputata del PD Silvia Costa, che fa parte della Commissione per i diritti delle donne e per l'uguaglianza di genere. Europa 24 notte. Verso le europee. Buonasera Silvia Costa. Buonasera. Senta, onorevole, dicevamo appunto di questa sentenza della Corte di Strasburgo di questi giorni che ingiunge al nostro paese, all'Italia, di riformare la legge per riconoscere anche alle madri il diritto di dare ai figli il proprio cognome. Ma in Europa quali sono i paesi dove già c'è questa esperienza, dove c'è questa legge? Perché molti si chiedono, poi i figli cosa avranno? Due cognomi e poi quattro e poi sei? In Europa come funziona? Dunque, in Francia recentemente, diciamo dopo 2000, insomma 2002, è stata modificata la legge e quindi l'attribuzione del cognome è come dire, possibile deciderlo da parte dei genitori, sia quello del padre che della madre o dei due cognomi affiancati. Invece in Germania non si consente il doppio cognome, ma si può scegliere quale nome coniugale adottare, quindi del nucleo familiare, perciò vale per tutti i figli. Nel Regno Unito, dove c'è la common law, insomma dove c'è una responsabilità parentale più ampia, è rimessa all'autonomia dei genitori, se non mi ricordo male, di attribuire il cognome del padre, della madre o di entrambi i genitori. In Spagna c'è il doppio cognome, infatti, dove mi pare che la decisione che possa essere assunta dalla famiglia sia quella se mettere prima o dopo il nome del padre o della madre. Quindi, come vede, c'è una certa apertura rispetto a questo tema. Si può dire che certamente in Italia questa questione è oggetto di varie proposte di legge che giacciono in Parlamento da tempo, e vorrei solo ricordare due cose. La prima è che nel 2006 già la Cassazione aveva proposto di aprire, se c'è una concorde volontà dei genitori, questa possibilità, no, di riconoscere alla madre. Nel 2012 c'è stato un decreto importante fatto, naturalmente un decreto del Presidente della Repubblica, la normativa si è adeguata, nel senso che quella che prima era una deroga alla regola, cioè di avere soltanto il nome del padre, c'erano solo delle deroghe per aggiungere il nome della madre in Italia, soltanto in una casistica molto limitata, che non sto a ricordare. Nel 2012 dal 2012 si consente che si possa aggiungere, su decisione della famiglia, il nome della madre. Questo è già un passo avanti, voglio dire, rispetto al passato. Certo, diventa una pratica un po' complessa, però il Presidente del Consiglio Letta ha detto effettivamente la nostra legge va adeguata. Voglio dire che appunto noi abbiamo questa possibilità di aggiungere il cognome non più come deroga, ma come scelta. Penso che siano arrivati i maturi tempi per cui sia l'anagrafe ad adeguare le proprie modalità ad una libertà maggiore di scelta dei coniugi. L'altro rischio che vedo un pochino sullo sfondo, ma insomma attiene più al costume, è che su questo, sulla scelta del cognome poi del nucleo familiare o dei figli, poi non si scatenino lotte fra i suoceri, ma queste saranno poi gestite, altre però questioni poi individuali delle famiglie. Non vorrei che tornasse alle discussioni sui titoli nobiliari o sui Montecchi e Capuletti. Spero di no, ma onorevole Costa, adesso andando verso le elezioni europee del 25 maggio, se le dovesse dire da politica, da parlamentare, da cittadina italiana, uno o due temi che vorrebbe fossero in primo piano nell'azione politica dell'Europa, dell'Unione Europea. Noi da tempo, a proposito di donne, chiediamo che ci sia una vera, come gruppo SND, che chiediamo che si arrivi finalmente a una vera e propria direttiva europea sui temi della violenza contro le donne. E noi abbiamo fatto dei passi avanti importanti, la direttiva sulla tratta degli esseri umani e l'ordine di protezione europeo e quella sulle vittime, però sarebbe molto importante finalmente assumere questo come un tema europeo e confrontarci sui sistemi giuridici, sulla protezione e sulla prevenzione. E un altro grande tema, secondo me, è una più decisa lotta alla povertà, che vede soprattutto, tra l'altro, una povertà soprattutto femminile e dei minori in quantità crescente. Penso che abbiamo messo 20 milioni di poveri in meno come obiettivo al 2020, ma temo che non ci siano sufficienti strategie anche nel nostro paese esplicitamente rivolte a questo. E terzo, il tema di una politica sull'occupazione giovanile e femminile molto più decisa. Grazie onorevole Silvia Costa. Allora, buon lavoro e buona Europa. Grazie anche a voi. Grazie d'attenzione. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Lasciamo allora l'Europa, anzi no, restiamo in Europa con la Francia, perché come vi dicevo all'inizio, il Consiglio di Stato francese, cioè la massima giurisdizione amministrativa in Francia, ha deciso di vietare definitivamente lo show del comico antisemita Dieudonné. Allora ci colleghiamo con Marco Mussanè, corrispondente per Il Sole 24 Ore da Parigi. Marco, quindi basta, se ne parla, censurato definitivamente. Sì, non se ne parla per questa sera, bisogna vedere che cosa succederà nei prossimi giorni, perché quello che è accaduto questa sera a Nantes è destinato a ripetersi di volta in volta nelle altre città in cui Dieudonné dovrebbe esibirsi nell'ambito di questa tournée del suo spettacolo Le Mur. Lo ricordiamo perché c'è stato tutto questo tira e molla, prima la censura, poi invece il ricorso e poi di nuovo il Consiglio di Stato? Guarda, molto rapidamente, Dieudonné è oggetto di polemica da molti anni perché nei suoi spettacoli c'è un forte contenuto antisemita, negazionista, contro la lobby ebraica, e molti sindaci già in passato hanno cercato di vietare i suoi spettacoli, ma la magistratura ha sempre autorizzato lo spettacolo in nome appunto della libertà d'espressione. Questa volta il governo ha deciso di scendere in campo con una circolare del ministro dell'interno che fa riferimento a possibili turbative di ordine pubblico, che è un escamotage che gli consente di intervenire, di chiedere l'intervento dei prefetti. Quindi il prefetto di Nantes, che è la prima città in cui avrebbe dovuto cominciare la tournée questa sera, aveva deciso di vietare lo spettacolo. Dieudonné ha fatto ricorso al tribunale di Nantes, che gli ha dato ragione autorizzando lo show. A questo punto il ministro dell'interno ha a sua volta presentato ricorso al Consiglio di Stato, che come ricordavi è la massima giurisdizione amministrativa francese, la quale invece ha stabilito che i contenuti dello spettacolo sono tali da poter suscitare dei problemi di ordine pubblico e ha quindi deciso di vietare definitivamente lo spettacolo, che quindi questa sera non è andato in scena a Nantes. A Nantes no, ma dovrà ogni volta riesprimersi il Consiglio di Stato oppure basta così anche per il resto della tournée? Guarda, la decisione del Consiglio di Stato sicuramente rappresenta un precedente importante, ma è valida esclusivamente per lo spettacolo di questa sera a Nantes. Quindi presumibilmente, poi bisogna vedere quale sarà la linea adottata da Dieudonné e dai suoi avvocati nei prossimi giorni, ma è possibile che per ogni città e per ogni spettacolo si ripeta la stessa situazione, per cui c'è il divieto da parte del sindaco o del prefetto, c'è il ricorso al tribunale e presumibilmente il ricorso al Consiglio di Stato. Questo è uno scenario che è possibile che si ripeta anche nei prossimi giorni. Beh, quindi alla prossima tappa allora. Grazie Marco Mussanè da Parigi. Grazie a voi. Ciao Marco. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Avete acceso la radio adesso? Dovete accendere alle 21, ma vi ricordo lo stesso i fatti principali della giornata. A partire da una data che c'è per il primo passaggio alla Camera della legge elettorale per la riforma, la Camera sarà il 27 gennaio. E poi i renziani contro Saccomanni con Nardella, che oggi a Radio 24, a Mix 24, ha commentato: i tecnici non funzionano. Il caso di Dieudonné l'avete appena sentito, guerra di sentenze. Per il momento la Francia blocca il comico antisemita e per il calcio Galliani assicura resto al Milan. Vi dicevo all'inizio, insomma, di un po' di fibrillazione della maggioranza, molta, ne abbiamo parlato in varie parti anche sin qui, e poi c'è anche questo tira e molla sulla reale situazione della nostra crisi economica italiana. Draghi oggi, il governatore della Banca Centrale Europea, ha detto bisogna parlare con cautela di crisi finita, la ripresa sarà lenta anche nel 2015, e poi Letta che ha detto sì al 2014, l'anno della riscossa, non ho capito se in senso imperativo di un auspicio. Di cosa? Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, ce lo spieghi tu? Sì, ci provo. Provaci. Nel senso che il Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, non ha pronunciato la parola deflazione, ma è come se l'avesse detta. Cioè, sostanzialmente l'Europa è ancora in crisi profonda. L'inflazione non è un problema in questo momento, anzi, i prezzi stanno scendendo troppo, ma a questo si accompagna anche un rallentamento dell'economia, una stagnazione dei redditi, appunto una situazione classica da rischio di deflazione. Quindi non a caso ha parlato di ripresa, di segnali di ripresa, ma che questa ripresa sarà molto debole nel 2014 e nel 2015. Il governo italiano invece ritiene in modo molto ottimistico che quest'anno il prodotto interno lordo crescerà dell'1,1%, la Commissione europea contesta questa cifra e dice che se andrà bene sarà dello 0,7%, e c'è una divaricazione tra la situazione reale del paese e quelle che sono le previsioni del governo. E ancora stasera, come ricordavi tu, il Premier Enrico Letta ha detto che il 2014 sarà un anno di svolta, è il momento del cambio di passo, crediamo nella ripresa e si ridurranno le tasse, eccetera. Questa però però sono cose che lui ripete ormai da mesi, e quindi purtroppo la situazione invece reale della situazione dell'economia italiana è una situazione ancora molto molto difficile. Saramica lo fa per la profezia autoavverante, sì, si dice in psicologia, io più lo ripeto questa cosa, sì, più accadrà. Sì, questo può essere, questo può essere, lui su questo sta insistendo molto e mi viene il dubbio anche a me che appunto sia per la profezia autoavverante. Però bisogna essere molto prudenti, anche perché quando parliamo del 2014 abbiamo già cominciato a ricordare quello che accadde esattamente 100 anni fa, quando diciamo fu l'anno, il 1914, l'anno della Grande Guerra, che fu il grande disastro diciamo europeo, e quindi ci sono anche dei bellissimi libri che ricordano, sono usciti in queste settimane, che ricordano quella tragica, quel tragico tratto di storia italiana ed europea, e dove appunto ce n'è uno molto bello di uno storico inglese che fa riferimento ai sonnambuli, e cioè che alle diplomazia, ai governi europei che non si accorsero sostanzialmente di quello che gli stava capitando intorno e che gli stava per accadere nel cuore dell'Europa, e lui fa un diretto riferimento alla possibilità che questo possa ripetersi diciamo in Europa adesso. Ci auguriamo proprio di no. Ecco, esatto, eviterei quindi diciamo di rincorrere il 2014 come l'anno della svolta. Siamo prudenti. Ti voglio chiedere anche, prima di salutarci, Guido Gentili, una nota anche su tutte queste tensioni della maggioranza. Quindi Letta che cerca di tenere in piedi, non so se la poltrona, il governo, quello che vuoi, le dimissioni di Fassina, le conflittualità, rivalità, non si capisce, tra Letta e Renzi, e Renzi che continua a aggiustare il tiro del governo. Poi Scelta Civica che dà oggi l'ultimatum sulla Tasi, Alfano che da una parte critica Renzi e poi dice attenzione, ce ne andiamo via a gambe levate se si parla di unioni gay, le accuse di ambiguità a Renzi, Renzi che i renziani contro Saccomanni, dammi proprio una tua sintesi, uno scatto fotografico. La sintesi l'hai fatta magnificamente te, cioè grazie. Sembra un po' un film di uno oggi, se adesso uno apre un qualsiasi sito diciamo online e vede quali sono le notizie del giorno, trova tutte le cose che hai detto tu diciamo in 22 secondi, e purtroppo questa è la situazione, c'è una situazione di grandissima tensione nel governo, nella maggioranza di governo, i ministri del governo Letta, in particolare un ministero chiave come quello dell'economia è sotto tiro da parte di Renzi. Renzi sta diciamo accelerando ancora di più, e la notizia che è arrivata questa sera, che avete ricordato prima, quella della legge elettorale, della riforma elettorale che va in aula alla Camera il 27 di gennaio, ecco, questo è un segnale preciso che diciamo continua la corsa di Renzi verso il raggiungimento di un obiettivo, quello che è la riforma della legge elettorale, che diciamo può aprire le porte al voto del 25 di maggio. Quindi c'è insomma questa tensione verso le elezioni. Senti, ultimissima cosa prima di salutarci, proprio l'ultima, Guido Gentili, sulle minacce di Alfano di lasciare il governo e di aprire la crisi se si parla di unioni civili? Beh, insomma, il nuovo centrodestra di Alfano è in una posizione difficile, perché come sappiamo ha rotto diciamo con Berlusconi, è uscito in una posizione autonoma ha difeso fin qui a spada tratta l'esperienza del governo Letta, ed è stato ha fatto blocco con lui nel dire bisogna continuare su questa strada. Però si sta accorgendo che la situazione appunto sta precipitando rispetto a quella che è l'accelerazione che ha impresso il nuovo segretario del PD Renzi, e quindi sta cominciando a piantare anche delle bandierine per differenziarsi diciamo nel caso si dovesse arrivare, come dire, a uno showdown in questa verifica sul contratto di programma che diciamo è già cominciata e che entrerà nel vivo nei prossimi giorni, e quindi credo che questo siano diciamo un segnare una posizione come del resto sta facendo anche la Scelta Civica, che lo ha fatto invece che sul fronte delle unioni dei matrimoni omosessuali sulla Tasi. Omosessuali li ha fatto con il fisco e con la Tasi, e quindi ciascuno sta piantando la sua bandierina. Grazie Guido Gentili, viva la bandiera italiana allora. Ciao Guido. Grazie a voi. Ciao. E adesso a proposito delle questioni delle unioni omosessuali, di questa polemica, leggo velocemente qualche vostro messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Rosanna che scrive: sono una convinta fautrice della libertà individuale di ciascuno di noi, per cui sia le unioni gay ed etero sarei anche per il matrimonio, ma il nostro paese dice non è pronto, farei un passo alla volta. Riccardo: purché non si chiami matrimonio, che ha un significato religioso di tutt'altra origine e destinazione, chiamatele unioni civili, e fa altri vari esempi. Daniele: sono un ragazzo gay di 24 anni e sinceramente trovo ridicolo che ancora oggi si parli di questo quando in tutto il mondo i diritti omosessuali sono riconosciuti. Camara scrive: Alfano, come Fassina, sta cercando una scusa per mettere fine al governo di Letta, quindi fa un'analisi politica a sua volta, sta facendo esattamente come Berlusconi, minacce, tale padre, tale figlio, dice. Marco: il mio commento era ora, sì, le unioni civili e le adozioni senza distinzioni di sesso, la distinzione tra matrimonio e unione civile rimanga nelle chiese. Domenico Alberto: vorrei ricordare ad Alfano che siamo nel XXI secolo, si aggiorni, e che problema c'è se si crea, se due persone dello stesso sesso che si vogliono bene possono sposarsi. Maurizio, insulta un po' Alfano, dice: faccia da mafioso, quando te ne vai è sempre troppo tardi. Poi Casa Felice dice: con questo tema si punta a sviare i cittadini dai temi economici, lavorativi, tributari, con molta carne a cuocere, alla fine si fa solo confusione. E Maurizio: bene l'apertura gay, ma anche alle lesbiche, par condicio, ma penso che si intenda ambedue. Carla: i sondaggi sull'argomento li avete letti, questi pseudopolitici non fanno altro che continuare a parlare alla pancia dei molti. Ma cambiamo argomento e ci colleghiamo niente proprio di meno con Las Vegas, dove è andato il nostro collega Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buonasera, buonasera a tutti. Perché lì, Enrico, c'è la più grande fiera internazionale di che cosa? Dell'elettronica di consumo? Esattamente, il CES, Consumer Electronics Show. Allora, una cosa gigantesca che occupa tutti i padiglioni della fiera di Las Vegas, ma non solo, anche alcuni casinò che hanno delle aree dedicate alle esposizioni di prodotti nuovi, di soluzioni, servizi. Insomma, una cosa gigantesca, ci vorrebbero molte più persone per visitarla per bene. Pensa che i grandi siti di tecnologia americani hanno delle redazioni fisse qui con 40, 50, chi 60 o anche più giornalisti che tutti i giorni visitano i padiglioni, quindi è una cosa veramente incredibile. Senti, io ti immaginavo preso da una slot machine elettronica di quelle super mega tecnologiche, ma tu stai facendo anche altro naturalmente, no Enrico? Non ancora, aspetto che finisca la fiera, poi magari colpo al casinò lo possiamo provare. Senti, la cosa più interessante che hai visto, perché di elettronica di consumo significa dai televisori alle cose più... Allora, diciamo che questo sicuramente è uno dei dati importanti di questa fiera, che l'elettronica di consumo oramai si sta espandendo a macchia d'olio. Fino a qualche anno fa questa era una fiera dove si parlava soprattutto di televisori, e anche qui abbiamo visto delle novità, i televisori che cominciano a diventare curvi perché dicono i produttori che creano un'immagine più immersiva per chi sta davanti alla TV, ma sicuramente i televisori non sono più l'oggetto più interessante di questa fiera, perché dicevo l'elettronica di consumo sta espandendosi in tantissimi settori. C'è una vera e propria esplosione di quelli che vengono chiamati wearable devices, cioè apparecchi che si possono indossare, a partire da, e ce ne sono tantissimi, orologi che ti misurano, oppure braccialetti che ti misurano quello che succede durante la giornata, quanto hai camminato, quante calorie hai consumato, il battito del cuore, quanto hai dormito, eccetera, eccetera, oppure orologi, ma di questi ne abbiamo già visti anche qualche mese fa, orologi che ti segnalano magari quando ti è arrivato un SMS sullo smartphone. Di certo, c'è da dire una cosa, non si può più far quasi nulla senza smartphone. Chiaro, e per questo Enrico Pagliarini ti chiedo di portare qualche gadget lì dalla fiera internazionale di Las Vegas, va bene? Non venire a mani vuote. Grazie. Se ci sentiamo anche domani sera. Anche domani sera, se vuoi. Vediamo, potremmo fare un collegamento. Intanto ti ringrazio e ringrazio anche tra gli ascoltatori Davide da Lecce e anche Vincenzo da Parma. Dopo.